Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Il 124 era silenzioso. Denver, la quale pensava di sapere tutto sul silenzio, rimase sorpresa nel constatare che la fame produceva quell'effetto. Rendeva silenziosi e stancava. Né Seth né Beloved se ne rendevano conto o se ne preoccupavano. Erano troppo impegnate a razionare le loro energie per combattersi a vicenda. Così era lei a dover fare il primo passo per superare il confine del mondo e morire. Perché se non l'avesse fatto lei, sarebbero morte tutte e tre. La pelle di sua madre, tra l'indice e il pollice, era diventata sottile come la seta cinese e in casa non c'era vestito che non le stesse floscio addosso. Beloved si teneva sulla testa con le mani, dormiva dove capitava e si lamentava perché voleva dei dolci, pur diventando ogni giorno più grossa e paffuta. Non c'era più niente, tranne le due galline che facevano le uova, e presto qualcuno avrebbe dovuto prendere una decisione: se fosse meglio un uovo ogni tanto che due galline arrosto. Più diventavano affamate, più diventavano deboli, e più diventavano deboli, più erano silenziose, il che era sempre meglio delle liti furibonde, dell'attizzatoio sbattuto contro il muro, di tutte le grida e i pianti che avevano fatto seguito a quel felice gennaio in cui avevano giocato insieme. Denver si era unita al gioco, restando un po' sulle sue, come era sua abitudine, anche se si era divertita come non mai. Ma dopo che Seth aveva visto la cicatrice, di cui Denver aveva potuto osservare l'estremità al buio, quando Beloved si svestiva, la piccola ombra d'un sorriso che curvava nella pappagorgia sotto il mento, dopo che Seth l'aveva vista, l'aveva esplorata con un dito e aveva tenuto gli occhi chiusi a lungo, loro due avevano escluso Denver dai loro giochi. Giocavano a cucinare, a cucire, ad acconciarsi i capelli e a vestirsi elegantemente. Erano giochi che a sua madre piacevano a tal punto che aveva cominciato ad andare a lavorare ogni giorno sempre più tardi, finché non successe l'inevitabile. Sawyer le disse di non farsi più vedere. E invece di cercare un altro lavoro, Seth si immergeva sempre di più nei giochi con Beloved, la quale non ne aveva mai abbastanza di niente. Le ninne nanne, nuovi punti di cucito, il fondo della ciotola della torta, il sopra del latte. Se la gallina faceva solo due uova, lei le prendeva tutte e due. Era come se sua madre avesse perso la testa, come quando nonna Baby voleva solo il rosa e non faceva più le cose che era abituata a fare. Ma era diverso, perché, a differenza di Baby Sacks, aveva escluso completamente Denver. Anche la canzone che era solita cantare a Denver ora la cantava solo per Beloved. Grande Johnny, grosso Johnny, non lasciarmi mai, Johnny. Quando a Denver risultò chiaro che il loro interesse era solo reciproco, cominciò a ritrarsi dal gioco, però le stava ad osservare, pronta a scattare al minimo segnale di pericolo per Beloved. Quando infine si convinse che non correva alcun pericolo, vedendo sua madre così felice e così sorridente, che cosa poteva capitare di male? Abbassò la guardia. Allora qualcosa capitò. All'inizio si preoccupò di capire di chi fosse la colpa. Teneva d'occhio sua madre, pronta a individuare il segnale che la cosa dentro di lei era di nuovo lì e perciò avrebbe ucciso nuovamente. Però era Beloved ad avanzare sempre nuove pretese. Riusciva ad ottenere tutto quello che chiedeva. E quando Seth non ebbe più niente da darle, Beloved tirò fuori il desiderio. Voleva che Seth le facesse compagnia, per ore, per guardare lo strato di foglie marrone che si muoveva ondeggiando verso di loro dal fondo del ruscello, nello stesso punto in cui, da ragazzina, Denver giocava in silenzio con lei. Ora a giocare erano altri. Non appena il disgelo era terminato, Beloved prese a osservare nelle foglie lì sotto il riflesso del proprio volto ondeggiare, ripiegarsi, allargarsi e poi sparire. Vestita coi vestiti di Seth, si carezzava la pelle con la palma della mano. Imitava Seth, parlava come lei, rideva come lei e usava il corpo alla stessa maniera, fin nel modo di camminare. Il modo in cui Seth muoveva le mani, sospirava profondamente col naso, teneva il capo eretto. A volte, quando se le trovava davanti, mentre facevano dei biscotti a forma di uomo e di donna o ricucivano dei ritagli di stoffa sulla vecchia trapunta di Baby Sax, a Denver riusciva difficile distinguerle. Poi l'atmosfera era cambiata ed erano cominciate le discussioni. Dapprima timidamente, una lagnanza da parte di Beloved, una scusa da parte di Seth, un minore compiacimento verso qualche sforzo particolare compiuto dalla più anziana delle due donne. Non faceva troppo freddo fuori? Beloved le lanciava uno sguardo come per dire «E allora?» Era forse passata l'ora di andare a letto, la luce non andava più bene per cucire. Beloved non faceva una piega, diceva «Fallo!» e Seth eseguiva. Prendeva il meglio di tutto per prima, la sedia migliore, il pezzo più grande, il piatto più bello, il nastro per i capelli più vivace, e più prendeva, più Seth si sforzava di parlarle, di spiegarle, di descriverle quanto aveva sofferto, quante ne aveva passate per i suoi figli, scacciando via le mosche dai pergolati, strisciando sulle ginocchia per raggiungere la baracca. Niente di tutto questo sortiva l'effetto desiderato. Beloved l'accusava di lasciarla sola, di non essere carina con lei o di non sorriderle. Diceva che quando piangeva non c'era nessuno, che su di lei giacevano degli uomini morti, che non aveva niente da mangiare, che i fantasmi senza pelle le ficcavano le dita dentro e la chiamavano amatissima al buio e puttana alla luce. Seth implorava perdono, enumerando, elencando in continuazione le sue ragioni, che per lei, Beloved, era più importante e aveva più significato della sua stessa vita, che avrebbe fatto cambio con lei in qualsiasi momento, che avrebbe rinunciato alla propria vita a ogni ora e a ogni minuto se questo poteva servire a cancellare anche solo una sua lacrima. Quando un paio di volte Seth aveva cercato di imporsi, di essere la madre indiscussa, la cui parola era legge e che sapeva che cos'era meglio, Beloved aveva cominciato a sbattere le cose, a buttar giù tutti i piatti dal tavolo, a gettare il sale sul pavimento, a rompere il vetro della finestra. Non era come loro. Amava il gioco duro e nessuno le diceva «Ragazza, sparisci di qua e torna quando riesci a ragionare». Nessuno le diceva «Provati ad alzare le mani su di me e ti butto giù con un pugno che rimani senza sensi per una settimana». Tagliato il tronco, il ramo muore. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Ti spiacci con la maniglia di quella porta e che nessuno si azzardi ad aiutarti. Al Signore non piacciono le brutte maniere. No, no. Loro aggiustavano i piatti, raccoglievano il sale con la scopa e a poco a Denver baluginò l'idea che se Seth non si fosse svegliato una mattina e non avesse preso un coltello, lo avrebbe fatto Beloved. Per quanto fosse terrorizzata dalla cosa che era in Seth e che poteva venir fuori, si vergognava a vedere sua madre servire una ragazza non molto più vecchia di lei. Quando vedeva sua madre portar fuori il secchio da notte di Beloved, Denver accorreva in suo soccorso. Però, allorché rimasero a corto di cibo, il dolore fu insopportabile. E Denver osservava sua madre cercare di farne a meno, piluccando il cibo caduto ai bordi del tavolo e della stufa, le croste, le scorze, le bucce. Una volta la vide infilare il più possibile il dito più lungo dentro un vasetto vuoto di marmellata prima di sciacquarlo e metterlo via. Poi, un giorno, Seth sputò qualcosa che non aveva mangiato e questo fece barcollare Denver, come se fosse stata colpita da una fucilata. Il suo compito iniziale di proteggere Beloved da sua madre adesso era diventato quello di proteggere sua madre da Beloved. Adesso era quanto mai chiaro che sua madre poteva morire e abbandonarle tutte e due. A quel punto, che cosa avrebbe fatto Beloved? Qualunque cosa stesse accadendo funzionava solo in tre, non in due. E dal momento che né a Beloved né a Seth sembrava interessare quel che poteva portare il giorno dopo, Seth che era felice quando lo era anche Beloved, Beloved che leccava la sua devozione come se fosse crema, Denver capì che toccava a lei. Avrebbe dovuto abbandonare il cortile, superare il confine del mondo, lasciarsi dietro loro due e andare a chiedere aiuto a qualcuno. Chi poteva essere? A chi poteva rivolgersi? Chi non l'avrebbe fatta vergognare, venendo a sapere che sua madre si lasciava cadere di qua e di là come una bambola di pezza, che era crollata alla fine, a forza di cercare di prendersi cura di tutto e di voler rimediare a tutto? Denver aveva un'idea di chi fossero certe persone per averne sentito parlare da sua madre e da sua nonna, ma personalmente ne conosceva soltanto due. Un vecchio dai capelli bianchi che si chiamava Stampede e Lady Jones. Beh, c'era anche Paul D, naturalmente. Non sapeva neppure da che parte andare. Quando Seth lavorava al ristorante e quando aveva ancora dei soldi per andare a fare la spesa, girava a destra. Ai tempi in cui Denver andava a scuola da Lady Jones, girava a sinistra. Vestita con un abito di carnevale sgargiantissimo e con le scarpe di qualcun altro, si fermò un attimo, pronta a essere inghiottita dal mondo che si apriva oltre la veranda del 124. Là fuori, dove c'erano dei posti in cui erano successe delle cose talmente brutte che, quando ci si avvicinava, potevano succedere di nuovo, come Sweet Home, dove il tempo non passava e dove, come le aveva detto sua madre, il male era lì ad aspettare anche Denver. Come avrebbe fatto a riconoscere quei posti? Cosa ancora più importante, assai più importante, là fuori c'erano i bianchi. Da che cosa si capivano? Seth diceva dalla bocca e a volte dalle mani. Nonna Baby diceva che non c'era riparo. Sapevano stare in agguato quanto pareva loro. Sapevano cambiare idea continuamente e anche quando pensavano di comportarsi bene erano sempre lontani mille miglia da quello che facevano i veri esseri umani. «Ma hanno fatto uscire di prigione», aveva detto una volta Seth a Baby Sucks. «Ma ti hanno anche messa dentro», aveva risposto lei. «T'hanno lasciato attraversare il fiume?» «A spese di mio figlio». «T'hanno dato questa casa?» «Nessuno m'ha mai dato niente». M'hanno dato un lavoro. Sei tu che gli dai una cuoca, ragazza mia. Oh, insomma, qualcuno di loro si comporta bene con noi. E ogni volta è una sorpresa, non è così? Una volta non parlavi così. Non stare a discutere con me. Ci sono più annegati tra la nostra gente di tutti i bianchi che sono mai esistiti dalla notte dei tempi. Metti giù la spada. Questa non è una battaglia, è una disfatta. Ricordandosi di quelle conversazioni e delle ultime parole definitive di sua nonna, Denver se ne stava al sole, sulla veranda, e non riusciva ad andarsene. La gola le prudeva, il cuore le scalpitava, e poi sentì ridere Baby Sucks, una risata chiarissima. «Vuoi dire che non t'ho mai detto niente della Carolina, del tuo papà? Non ti ricordi di come mai cammino così e dei piedi di tua madre per non parlare della sua schiena? Non t'ho mai detto niente di tutto questo? È per quello che non riesci a scendere i gradini? Oh, Gesù, Gesù!» «Ma tu m'hai detto che non c'è riparo?» «No, non c'è!» «E allora che posso fare?» «Tienilo a mente ed esci dal giardino. Vai!» «My road lies in darkness. Just as far as I can see. My road lies in darkness. Just as far as I can see.» Si ricordò. Erano passati una dozzina d'anni e si ricordò la strada. L'avrebbe riconosciuto dovunque. Il palo e lo steccato fatto di legno di scarto, Non era più bianco ma grigio, però l'avrebbe riconosciuto dovunque. La veranda di pietra orlata dall'edera, le tendine alle finestre d'un giallo pallido, il vialetto di mattoni che andava alla porta principale e le assi di legno che facevano il giro e conducevano sul retro, passando sotto le finestre dove lei si era alzata in punta di piedi per sbirciare sopra il davanzale. Denver stava per farlo di nuovo quando si rese conto di come sarebbe stato sciocco essere scoperta un'altra volta a sbirciare nel salotto di Mrs. Lady Jones. La gioia di aver trovato la casa svanì e si trasformò improvvisamente in dubbio. E se lei non viveva più lì? Oppure se non si fosse ricordata della vecchia alunna dopo tutto quel tempo? Lady Jones andò alla porta, aspettandosi l'uva passa che le avevano promesso. Era un bambino, probabilmente, a giudicare dalla leggerezza con cui avevano bussato. Era più grande, naturalmente, e vestita come una prostituta. Però Lady Jones riconobbe subito la ragazza. In quel volto c'erano i tratti di una bambina qualunque, gli occhioni grandi come monete, audaci però sospettosi, i bianchi denti robusti dietro le labbra scure, scolpite, che non riuscivano a coprirli. Si intuiva una certa vulnerabilità lungo il dorso del naso, sopra le guance. E poi la pelle, senza rughe, tirata, giusto quanto serviva a coprire le ossa e non un millimetro di più. Ora doveva avere 18 o 19 anni, pensò Lady Jones. Denver, ma guarda chi si vede, esclamò la donna. È bello da parte tua venirmi a trovare. Qual buon vento ti porta? Denver non rispose. Beh, non c'è bisogno di avere un motivo per fare una visita a qualcuno. Su, prepariamo il tè. Lady Jones era mulatta. Aveva gli occhi grigi e i capelli biondi e lanosi che lei odiava dal primo all'ultimo, per il loro colore o per la loro consistenza, neppure lei lo sapeva. Aveva sposato l'uomo più nero che fosse riuscita a trovare e aveva avuto 5 bambini dei colori dell'arcobaleno. Lady Jones credeva nel profondo del suo cuore che, a parte suo marito, il mondo intero, compresi i suoi figli, disprezzassero sia lei sia i suoi capelli. Era abituata a sentire la gente che diceva «tutto quel giallo è uno spreco» e «negra bianca» da quando era una ragazzina, in una casa piena di bambini neri come la melma. Così tutti le stavano un po' antipatici perché credeva che odiassero i suoi capelli tanto quanto li odiava lei. Con la sua educazione impeccabile e fortemente radicata, faceva meno di provare rancore. Era gentile con tutti, ma risparmiava il suo vero affetto per i bambini di Cincinnati che non erano i prescelti. E una di questi sedeva di fronte a lei, con un vestito così vistoso da oscurare persino il ricamo a mano della sedia. Zucchero? Sì, grazie. Denver lo beve tutto d'un fiato. Ne vuoi dell'altro? No, signora. Qua, serviti pure. Sì, signora. Come sta la tua famiglia, tesoro? Denver stava bevendo e si fermò a metà sorso. Non c'era modo di dirle come stava la sua famiglia. Così le disse quello che più le premeva. «Cerco un lavoro, Miss Lady». «Lavoro?» «Sì, signora, qualsiasi cosa». Lady Jones sorrise. «Che cosa sai fare?» «Non so fare niente, però imparerei volentieri. Se ha qualche cosa che avanza». «Che m'avanza?» «Roba da mangiare, signora. La mia mamma non si sente bene». «Oh, bambina mia», disse Mrs. Jones. «Oh, bambina mia!» Denver alzò gli occhi verso di lei. Allora non lo sapeva, però fu quella parola, «bambina», detta a bassa voce e con tale gentilezza, che segnò il suo ingresso nel mondo da adulta. Il sentiero che aveva seguito per arrivare a quel posto dolce e spinoso era fatto di ritagli di carta contenenti nomi altrui scritti a mano. Lady Jones le diede del riso, 4 uova e del tè. Denver le disse che non poteva star via di casa per molto tempo a causa delle condizioni di sua madre. Poteva fare qualche lavoretto al mattino? Lady Jones le rispose che nessuno, né lei né nessun altro di sua conoscenza, avrebbe pagato qualcuno per un lavoro che poteva benissimo fare da solo. Però se tutto quello di cui hai bisogno è mangiare, finché tua madre non sta bene, beh, non hai che da dirlo. le parlò del comitato della chiesa di cui faceva parte, inventato proprio perché nessuno dovesse soffrire la fame. Questo mise in agitazione la sua ospite, che disse: «No, no», come se chiedere aiuto a quegli sconosciuti fosse peggio della fame. Lady Jones la salutò e le chiese di tornare quando voleva. «Torna pure, senza problemi». If you're coming too late, your mama will be gone. Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.